USB. Filippo, vieni avanti di nuovo. K Marco, mi trattengo poco per questo passaggio, poi mi sta. Marco, mi fai un Santiago 9 con una radio stereo? Stanno parlando in 2-3. Stupenda. Ti ha detto Gavini Santiago 9, radio 5, come Gianni, uguale, preciso identico, vai Gianni. K, K, dai. Va bene, qui la stazione doppio room, ti ascolto un po' più basso adesso, secondo me la propagazione sta scendendo un po'. Sì, una propagazione veleggiante, dai, diciamo così, veleggia, ci fa veleggiare. Va bene, ragazzuoli, vi saluto, anche la 50 mi sta chiamando, riprenda per cortesia la ruota, chi di dovere. Ciao, ciao a tutti quanti, buona continuazione. Santiago 8, Filippo, Santiago 8 confermato, ciao. Grazie Filippo, grazie. Buona serata, ciao ciao. Ciao Filippo, ciao, un caro saluto dall'isola Sarda, ci sentiamo le prossimine, grazie per essere entrato, va bene. Ok, allora vediamo un pochino, già stacca, io voglio fare la differenza, ti avete, anche tu Marco, stacca tutto e baracchino il microfono, fatemi sentire, voglio vedere dov'è che cambia la tonalità dei due. Sì, aspetta. La 1, 2, 3, 4, 5, orecchio e poi vai con la di Marco. Vai Marco, stacca. Scarica permettendo, è del mic. L'eco devo staccare, scusa. Guarda, l'ho messo al minimo il mic in modo che sia... E qua è un casino perché questo apparato esce già forte di radio, se li metto pure la... E se no, aspetta, tagliamo la testa al toro. Gianni, a quanto ce l'ha il mic KPO? Adesso è a metà. Aiuto, Marco, metti il microfono a metà e toglimi questo cacchio di eco, sembra in chiesa. Ma non male me la critichetti a me poco fa. Ecco, però mi entra un sacco di ventolina. La staccherei. Allora, KPO a metà. Stacchiamo sto cazzo di ventolina. Ale, guarda che bello adesso. Ah. Ecco, conta una cosa però, Gianni sta utilizzando un 3009, credo il modello omologato, quindi col trimmer parzialmente chiuso. Questo già invece utilizza una modulazione molto molto espansa già di serie, molto molto, quindi con questo mic diventa già un casino. Guarda, così sono a distanza 15-20 cm dal mic, parlando di 3/4, così sono lontano tutto il braccio. A livello di timbrica, Claudio, che differenze senti tra me e Gianni? Allora, voglio capire una cosa, Gianni, tu che distanza lo tieni il microfono dalla bocca? Sì, adesso ce l'avrò un 30 cm, dai. Ok, 30 cm, vai anche tu con una trentina di centimetri, Marco? K. Cos'è sto casino? Scusa. Allora, fammi fare il calcolo. Allora, 30 cm dal mic, com'è che la bisogna mea? Ecco, allora, la differenza ti ho notato. Praticamente avete una bellissima modulazione tutte e due. Però la tua radio, essendo un po' più spinta, hai più acuti, mentre quella di Gianni ha più tonalità medio-bassa. È un po' più corposa la modulazione. E non è male, devo dire, non è male. Sono belle tutte e due, però io in questo contesto preferisco più quella di Gianni perché mi dà quella timbrica di corposità un po' più pacata, capito? Più corposa, mi piace di più la modulazione, ha più tonalità medio-bassa, la tua ha più tonalità medio-alta, è un po' più amplificata, con quel senso lì, però sono belle tutte e due, e questa è la differenza che noto io. Marco, adesso col volume al massimo, a vedere se rende di più. Vai Gianni, passaggio lungo. Tu sei al massimo già. Adesso l'ho messo al massimo, prima era a metà. Adesso l'ho messo al massimo, guarda se ha cambiato qualcosa. Cazzo, molto bella già, io ti consiglio di tenerla al massimo al microfono. Molto, molto, molto bella, molto bella. Sì già, perché tu hai il collo di bottiglia del 3009, del trimmer che non è aperto, perciò anch'io consiglio. Allora, io ho stesse condizioni, microfono al massimo, microfono messo a manetta, sempre 30 cm dal mic. Però in questo caso, vedi, Gianni col microfono al massimo ha quella spinta che piace a me, nel senso tienilo al massimo col 3009 col microfono, perché è stupendo, eh? Così al massimo, guarda, così l'ho messo al massimo e penso che vada bene, dai, io non mi sono ancora ascoltato, ma lo farò, dai. No, no, va bene, va bene. Se te lo dico io, stai pur certo, ho cambiato anche col Kappa, ti ho messo in DSP con 920 e ti dico che è una bellissima modulazione, una bella modulazione, una bella corposa, amplificata e con le giuste tonalità, insomma, ecco. Però Marco, rispetto a te, ha appena appena più di amplificazione, spinge un po' di più perché chiaramente la radio è aperta, la tua essendo normale per me va più che bene, non bene, più che bene. Vai Marco. Sì, ho ripristinato un quarto, se no hai spacca orecchie, mamma mia, poi si tira dentro tutti i rumori, eccetera. Comunque questa radio scalda troppo, io sto usando 4 watt modulati e dietro, aia, è bollente da non poterci tenere la mano sulla aletta di raffreddamento, cioè se pompi molto posso capire, ma che scaldi a questi livelli con 4 watt è mal progettata. Ma il 3009 stai usando? No, il CRT 9009. Ah, ecco. Quello lì scalda di più, no? Forse ha più watt, no? Sì, dovrebbero essere, loro dicono 30 modulati, ma in PEP è una balla. Modulati sono 14-15. In FM una quarantina, in SSB una sessantina. Ma io adesso sono con 3 watt di portante muta, guarda, e 4 modulati, ecco, per non farlo scaldare. Invece è Budendi, ci posso cuocere le uova dietro. Sì, ma conta che c'è anche molto caldo, le radio un po' soffrono adesso perché c'è caldo. È vero, quello è vero, e anche il computer rispetto all'inverno basta che lo accendi e Budendi. Intanto si cambia radio, così almeno gli diamo modo di diciamo di raffreddarsi tutte, là. No, avete veramente tutte e due una bellissima radio, veramente, ottimo microfono, ripeto, sono belle tutte e due le modulazioni, vanno benissimo, c'è una leggera tonalità diversa, ma la timbrica è molto bella, piacevole da ascoltare. Grazie a Marco che ci ha presentato questo microfono, io non lo conoscevo proprio per niente, non l'avevo mai visto, dico la verità. Ne ho visto uno tipo l'M300 col cursore, non so se l'hai visto Marco, quello che c'era a fianco. No, non ce l'ho presente, dovrei riguardare il sito originale. Io vorrei sentire Claudio con questo mic, questo è molto molto fedele come modulazione, con Claudio deve essere spettacolare da sentire. Io l'avrei anche ordinato, ma non uso microfoni normali con i baracchini, capito? Non ci riesco, non riesco ad usarli. Ora c'ho un M300, c'ho un cosa c'ho? Un MP2, ne ho tanti microfoni da palmo, c'ho quello, ne ho due di quelli con la rotellina, con la batteria, mi pare a stilo, che vanno molto bene lo stesso, che usavo con l'Elco e che povero Pinaggio usava con l'Elbe, che si andava molto bene. Ne ho microfoni amplificati da palmo, ma non li uso, capito? Non, se no l'avrei anche ordinato, però ordinarlo non usavo, non ci riesco, è più forte di me. Questo è carino perché anche è classico come microfono, non è il solito microfono, è il solito disegno microfonico, no, è classico. È un attimo una foto, perché io non lo conosco come microfono. Capo. Sì, è un bel microfono, diciamo che non è il solito microfono con le grafiche, no, è diverso. Io, un attimo una foto, vediamo un po'. Bene, sto facendo raffreddare il 9009, ho messo il President modello Terra Terra, il Taylor, che è proprio questo omologatino. Ah, non vedo picchi, non vedo niente. Aspetta, io stacco il lineare del garage, lo faccio andare con la potenza sua un po'. Eia. Però questo leggero coso, il PTT forse è un po' da spruzzare, c'è. Cioè. Vedi qua quanto ruba. Gianni, come più mitigato su questo presidente? qua no, non puoi toccare nulla, non hai trimmer, non hai niente, ce lo devi tenere così, l'ho messo a metà. No, va bene, Marco. Oh, io sto andando solo con la potenza del garage, 10 watt, la modulazione va bene lo stesso. Ma come mai solo Santiago 9? Stai arrivando 9, è possibile? Sto andando con... questo è regolato per l'amplificatore, quindi staccando l'amplificatore va con 4 watt. Mentre prima quando arrivavo più forte... Prima era un altro Smitter, adesso vabbè, tipo 9.5, 9.10, una cosa del genere. Credo di averti visto sul 9.10, non oltre comunque. Sì, questo è il Presidente Taylor, piccolo, omologatino da macchina, ultima generazione, ma non troppo, c'ha sempre le manopole, i controlli a manopola, quelli che servono. E il mic è a metà, è che qua non dà picchi, non vedo niente, qua. Proprio inerte rimane, vabbè. Non lo so, va bene. Bisogna ogni tanto farlo andare, mi ha detto chi me l'ha fatto, di farlo andare ogni tanto anche senza amplificatore. Capito? E allora ho staccato, ho abbassato la leva, sto andando con la potenza della radio. Mi senti già, sì? Gianni? Ecco, aspetta un secco. Via, avanti Brecco. Mettete le amici qua. Buona giornata, col caldo che fa. Caldo che fa qua in Sardegna, parecchio caldo. Claudio Sparviero qua con un baracchino della mutua, mi senti? Sì, ti sento molto bene, è più benissimo di copio. Anzi, se segna non riesco a copiare, invece riesco a più bene. Ti sento da... evidentemente che puoi fare. Sì, capo, adesso ho aumentato un pochino perché poc'anzi stavo andando con 4 watt, adesso sto andando con 80-90 watt modulati, mi senti meglio? Differenza, è molta la differenza, soprattutto per esempio c'è gente anche che mette l'eco e spara via. Allora sono contento, Galaxy Saturn Eco, 5 ottavi antenna e... un amplificatore all'interno della radio, un 747 da un centinaio di watt, tutto qua. Questo è il mio giocattolino. Ti passo Marco per i saluti, vai Marco. Claudio, guarda il caletto. Sì, adesso lo guardo. Andate per l'amico qua, vai Marco, poi passa per Gianni, che guarda la foto del microfono. Gianni, vai tu prima. Io non so da dove stiamo durando, l'amico comunque ben sentito, è la stazione doppio rum della città di Sassari che ti super cordializza, avanti. Dalla provincia di Vicenza, coordinate provincia di Vicenza, ti sento benissimo, ma mi sento... Come? No, grazie a Dio allettato no, c'ho un dolore al femore, quindi mi sono coricato per quello, dai, mi sono coricato perché ho questo dolore al femore e dovrò farmi sicuramente l'intervento. Porca miseria, che ti dice? La testa del femore è consumata, ho già operato l'altra, la gamba, e adesso c'è questa qua. Purtroppo quando è così, più che operarlo non si può fare, non ci sono né creme, né pomate, né antidolorifici che valgono. Io ho una sorella che si è operata 7 volte al ginocchio e forse sono riusciti con la protesi a risolvere il problema. È un macello. Si è sparito l'amico. Va bene, ripeti, salutato se non ci sentiamo, dai, ti passo Marco da Sassari, avanti Marco. Ah, già, adesso ti manda, oltre al tuo c'era il video del Saturn. Cazzo, non mi ascolti matto, nuovo è diventato, una bestia, Gli ha mandato, l'ha finito Albino, gli ha mandato il video, me l'ha mandato a me, ma cazzo che ricezione, meglio del mio, mi sa che devo portare a farlo operare bene. L'ha aggiustato? Ehi, ha aggiustato giuro, ma ha aggiustato però, una nuova è venuta la radio, va. Se ti manda, glielo ho detto a Carlo di mandarti il video, ma senza già... per carità, non prenderla male, ma giusto per farti capire quando le persone sono dei professionisti, delle persone valide, delle persone che sanno fare le cose, le fanno bene, capito? Ehi, vabbè, dai, non c'è problema, gli anni di apparecchi. Andare, mandamelo avanti. No, già, ti ripeto, non la prendere male, non è perché non hai apparecchiature, ce li ha, grazie a Dio, vabbè. Però non era una radio da mollare così in fretta, non mi hai ascoltato. Se tu la davi al vino quella radio, una trentina di euro te la mettevo a posto. Capito? Ma fai, ce ne spendevi 50, ma c'hai una signora radio veramente. Ma se ti manda il video, io sto caricando il telefono che mi si è scaricato. L'ho detto a Carlo di mandartelo il video. Ma è venuta veramente nuova, veramente bella. C'era l'amico, ci sei ancora amico di? E sì, cavolo, se ti copio, sei 5-9 più qua, la grande. Ma quando ti arrivo? Mi arrivi 5-9 più. Ma te con che azienda stai modulando? Io adesso sto andando con una J-Pol 7 ottavi, 8,50 m di antenna, la radio è un Saturneco con circa un'ottantina, 80-90 watt modulati entro contenuti, perché c'è un linearetto all'interno. E il microfono è un Tamer più 3B da tavolo. L'antenna è abbastanza alta, pura, è una bomba. Sono a circa 400 metri dal livello del mare, abito in una collinetta da Sassari verso Osilo, un paese a circa 10 km da Sassari. Io sono in mezzo, una collinetta di circa 380 metri dal livello del mare. Sì, siamo già sentiti, mi pare, qualche giorno fa, in propagazione. Mi fa piacere comunque, ogni tanto siamo... Claudio Spariviero da Sassari. Questo di Firenze alla Mantova, io anche la Mantova, però di Firenze alla Mantova quando c'è propagazione uso questa perché in propagazione è micidiale, non ce n'è per nessuno. È una 7 ottavi, è un'antenna molto più alta e quindi lavora molto meglio in propagazione a lunga distanza, mentre in città quando facciamo questione locale uso la 5 ottavi che è la Mantova 1. Un abbraccio, grazie per essere entrato, saluti e cordialità a te e famiglia, vediamo un po' chi c'è per i saluti, vai. Ciao, ci sentiamo, grazie per il questione e buona serata, vai. Ciao l'amico, ci sentiamo, buon proseguimento di serata, ciao anche a te. Te l'ha mandato già il video? No. Com'era il nome dell'amico, Nicola o Nicolino? Molto bene, adesso la prossima settimana ci deve andare a ritirarsi. Vabbè, adesso fammi caricare il telefono, se non te lo manda già te lo mando io. Chiappa, sì, ho visto il microfono, li ho già visti però quel microfono, forse non marcati così, però quella sagoma l'ho già vista da qualche parte, boh. Forse ricorda un po' il Densei, modelli vecchi. Aspetta, ho cambiato col chiappa. Sì, bravo, esattamente, beh, bravo, esattamente, sì. Sì, i Densei avevano il LED in alto, lo stesso la barra dell'amplificazione in alto, un po' più arrotondati della ZG che è leggermente più squadrato. Sì, più o meno una cosa del genere, sì, mi ricordo perfettamente, più o meno una cosa del genere. Comunque vedi, adesso sei 9 più 10, prima infatti ho visto il segnale così basso, a filo di 9, ho detto come mai? Credevo stesse succedendo qualcosa da me. No, ma adesso sono col K, 9 più 10, aspetta che posso nuovamente col Galaxy agganciato, perché poco fa ho abbassato la levetta, stavo andando con 4 watt, aspetta che passo col Galaxy agganciato. Guarda a vedere col Galaxy agganciato se è sempre 9 più 10. Qua non è che non vedi la differenza, non riesci a percepirla. 9 più 10, dai. Ecco, guarda, 9 più 10, adesso ho abbassato l'interruttore, è così? Hai visto poc'anzi? Sì, che poi non è un 9 pieno, diciamo che è un 8 e mezzo, questo smitter è un po' secco però, te l'ho spiegato che i presidenti li tarano a 100 microvolt, non il Santiago 9, sono un po' più legna verde, capito? Dovrebbe essere 9 e 9. Vabbè, allora abbiamo risolto il problema del passo col K. Riprende Gianni. Ehi, adesso sono normale, dai. Sì, intanto anche se popolazione, visto che ci ascoltano lo stesso, adesso sono con 140 amici 60, facciamo riposare un po' il Galaxy che è tutta la sera andando a massima potenza. Vediamo se è caldo. Insomma, tiepidino, dai, dietro il dissipatore va bene. Mi sembra, sì, alla grande non scalda niente, però forse sono gli alimentatori, tutte le radio accese, adesso spento tutto, ne ho una sola accesa perché altrimenti mi satura la casa dal caldo. Prima c'era più calma nel pomeriggio, ma sto uscendo di radio almeno, sì, stiamo locattini, sono un po' così, invece poi si è allevata la propagazione, caspita. Sì, ma la sera si apre sempre, anche in 10 metri c'è propagazione, ho visto che c'era qualcosa anche in 6 metri, in 50, in 50 mega, qualcosa c'era, si apre un po', ok. Va bene, un goccio di tè freddo, arrivo subito ragazzi, vai già. Ehi, perché ti fate male il caffè, ti fa vedere i capelli dritti. Marco! Ehi, è caldo c'è, porca madonna. Mi stavo uscendo. No, si bestemmia. Diciamo, al mare, a farti un giro al mare non sei andato. Allora, questo scarica, maledizione. No, già, perché mamma... non sa bene, era stata ricoverata, non è autosufficiente, io non posso lasciarla sola, posso uscire un'ora per le commissioni e basta, ma quest'anno il mare me lo dimentico, per abbassare il volume, ecco qua. E c'ho caldo qua, cioè già seduto in mutande, seduto sul divano, mi viene caldo dietro, non so come stare. E tuo zio al cambio non te lo dà? No, lì c'è mio zio che non dico che sia nelle stesse condizioni, però anche lui ha avuto una brutta esperienza. Oh yeah, vabbè, purtroppo bisogna fare sacrifici in questi casi, la devi fare. E io c'ho la gamba così di nuovo, adesso devo operarmi l'altra. Non posso più appoggiarla in terra, mi fa talmente male, guarda. E se non c'ho la stampella, mi aiuta molto. E anche le pomate un po' mi aiutano, ma non del tutto. Cioè per il momento magari stai, te la alleggerisce il dolore, ma non te lo fa passare del tutto, devi stare anche attento come appoggi la gamba, perché secondo come la appoggi sono dolori allucinanti. Buonasera, posso conferire con voi? Sì, caro, se ce lo chiedi così non possiamo rifiutarti. Sì, quando fate così vi temo. Oh Natali, stamattina ti ho chiamato quando eri incazzato, che hai toccato, sta bruscia da voi non entra. Io ti ho detto Natali, di vino, e voi te lo sei entrato. Gianni, lo so cosa ti dico. Quando vedo così prendo, spengo e via. Tanto è inutile. E la gente che voleva giocare deve essere. E siccome io non ne avevo voglia, mi sono stato tutta la mattina studiando, ho spento tutto e via. Hai fatto bene, io me l'ho immaginato che tu avessi spento, perché io ti ho chiamato Natali, boh, niente, deve essere sul lato di Rudutti, incazzato. Avanti, Marco. Bianco per me. Meglio, ripeti Natali. Come sto uscendo di radio già? Perfettamente, benissimo. E capa. No, non lo fa. Ma è normale. È normale, cazzo. Viene a sapere poco di cosa chiama, mamma mia. Sono tu. Vedi di volea. Vedi che concetta bene il mattarello. E ci metto molto a dargli un'istoccata a questa. Ma ti devo dire il curu, ecco. Mica ti sentono. Parla bene, maleducata. Maleducata. Dillo, concetta, quando ci vo, penso come la base. Perché ho cambiato il microfono, ho capito. Facci. E che microfono hai messo? Un altro, il Tarn. Va benissimo. Il K. Già si accoppia bene con questo. E ti piace accoppiarti? Di la verità. Tu fanno i microfonini? Ma cosa vuoi tu, questo condo, ratapignara? Sempre dicendo cosa mi stanno, Marcolino. La risa di ne capa, da. Alla. batteria, cercherò di fare il bravo, dai. Caspita, però queste scarichette, il microfono è nuovo, non ci devono essere, dopo mi tocca spruzzare il PTT. Comunque già, vedi, il microfono a metà su questo presidente, che di quelli che non puoi fare niente, scommetto che è molto più bassa. Ma ora va bene lo stesso, Marco, va bene, non è bassa. No, va bene, è presente. Se no, si può alzare, ma... no, e mi fischia l'autoascolto, aspettiamo senza autoascolto. Test 1, 2, 3, prova. Ma a me sembra la stessa porcheria. No, non fischia. Adesso non fischia. Qual è meglio, l'MB più 4 o questo, Marco? È difficile a dirsi, Antalì. Io ti ascolto sempre con un apparecchio diverso e come faccio a dirtelo? Adesso attacco l'MB più 4 e mi dirai. Eia, mamma mia, c'era pure il coso attaccato, era Budendi. Avvertite Mimì quando il segnale è alto, perché io qua non lo vedo il LED. Marco. Vai. Questo è l'MB più 4, però è a manetta, invece il timer era a metà. A me piacciono tutti e due, la timbrica è ottima, sia questa che l'altra. Non saprei scegliere. Cosa dici tu, Gianni? Gianni? Allora, facciamo così, Natali. Adesso ho messo lo squelch. Voglio sentire solo te. Fammi un bel passaggio lungo con questo e poi rimetti l'altro. E guarda, Marco, questo è l'MB più 4. Misurati la glicemia. È l'MB più 4 della ZG. Adesso attacco l'altro e ti farò sentire l'altro. Guarda, questo è il turner. Passaggio lungo. Questo è il turner più 3 della turner, appunto. Volevo sapere qual era il migliore, là. Guarda, se tu non me l'avessi detto io forse non l'avrei distinto. È probabile che abbia appena più di alti, ma una cosa è un'inezia, boh. Gianni, sì. Ehi, ma stavo guardando il filmato che mi ha dato Claudio e non stavo ascoltando. Prova, Natali. E adesso questo è il turner più 3. Poco fa stavo usando l'MB più 4 per sapere qual era migliore dei due, là. E mettilo, così te lo dico. Questo qua è appena metallica, ma poco. E vediamo un po' l'altro. Guarda, questo è l'MB più 4. 1, 2, 3, prova, là. Beh, in effetti ha ragione Marco, bene o male sono uguali. L'altro è appena più metallica, non so se Marco l'ha notato, c'è appena di metallico quella del Tamer, però sono belle tutte e due, Natali. Sì, questa è un po' più calda, appena più calda, io la preferisco, l'altra è più, io ho detto toni acuti, appena, ma sì, è un leggero effetto metallico, capito? Io ho capito. Questo è a metà comunque, l'altro invece è a manetta, l'MB più 4, non amplificheggia, boh. O dipende dall'apparato. Naturale. Prova a mettere la manetta a questo, Natali. Questa è a manetta adesso, guarda, questo è il turner più 3. E adesso la differenza già si sente. Quell'altro era già a manetta. Sì, questo qui è più forte. È più forte come microfono, però la modulazione, come ha detto Marco, l'altra è più calda, questa qua rimane più metallica. Sì, è sempre, cioè il turner c'è la di suo, il fatto di essere appena metallica. È più o meno come il diavolo rosso che cazzo c'ha i toni acuti e non si abbassi, è la stessa cosa. Vabbè, comunque, tutti e due sono promossi, là. E aspetta che metto a metà l'MB più 4, questo è l'MB più 4, guarda. Allora, adesso è a metà l'MB più 4, non amplifica nulla, penso, no? No, si è basso di radio. Io sento la differenza. Una è l'amplificazione da cuoco, ma l'altra è la pedifella. Vedi, è basso di radio l'MB più 4, ma forse dipende dalla radio perché non è stata toccata e non amplifica per questo. Questo qui, là. Adesso ve lo spiego. Allora, in realtà, no? Il 3009 tolto dalla scatola è modulato e era veramente troppo chiuso il trimmer. Il trimmer era a un terzo, partendo da zero a un terzo. Ed era talmente chiuso e talmente bassa che qualcuno diceva sempre è bassa, è bassa, è bassa. Allora io, senza metterlo a manetta, che sennò è veramente fuori omologazione, l'ho messo esattamente a metà il trimmer, anche se io dicevo che era di fabbrica, l'ho messo a metà in modo da essere ancora nei parametri dell'omologato ma senza essere sparato a manetta. Se voi lo mettete a metà avete una via di mezzo tra il disomologato e l'omologato, pur restando sempre nei parametri. Ma io penso che una volta che lo zucchi l'omologazione la perde in ogni caso, ma... Tanto tu lo puoi rimettere, guarda che di fabbrica, allora io ne ho avuti due più quello, erano tutti tarati in modo casuale, uno un terzo, uno a metà, uno un po' di meno, uno un po' di più, quindi come fanno a sapere come in che posizione il trimmer, anche in caso di controlli? Una cosa diversa è metterlo a manetta, se tu lo metti a manetta è palese che, e poi si sente che pom pom, beh, capito già. Già, ti avrei fatto il video? Sì, l'ho visto, te l'ho scritto anche, che sembra che vada bene. Sì, sì, sì, bravo, va bene, era giusto per farti capire quello che ti avevo detto inizialmente. Sì, Natali, io noto una differenza che è esattamente quella che ti ha detto Marco, nel senso che un più 4 spinge di meno. E infatti, ma dipende dall'apparato che avrà il trimmer chiuso. Sì, sì, però lasciatelo così, perché sia tu che Gianni, ripeto, sempre a differenza di Marco, che il suo 3009 è aperto, andate benissimo, bellissima modulazione alla grande, senza problemi. No, uno è aperto, l'altro è normale, è chiuso tra virgolette a metà, diciamo, da. No, ma va bene Marco, vanno bene, ma andate bene tutte e tre, avete delle radio buone, ottime, con ottimi microfoni, va bene, lasciatele così. Questo PTT non è perfetto, vabbè, si può ritoccare col CRC, dai. Me ne accorgo che è acuta, e anche dal monitor, minchia. Eh sì, ti ho chiesto, c'è differenza dal 430 al 140 di radio solito, sempre MC60? Perché hai cambiato radio? Se non me l'avessi detto. No, sono contento, va bene, vuol dire 140 pompa quanto il 430, perché a volte mi dicono che il 430 è troppo alta di modulazione, io ce l'ho sempre a 2, e a metà quello del 140, quindi i microfoni sono uguali, dovrebbe andare bene. Vai, dammi doppio. Ho cercato i cremini da Lidl e non c'erano. C'erano gelati di tutti i tipi, tranne quelli cremini, pinguini, come li vuoi chiamare, quelli lì, non c'erano. Non lo so. L'ho preso io, già non c'era. Da Lidl? Non lo so, io sono andato lì e non ne ho trovati. Forse era vuoto, se li sono presi tutti. Perché l'erano offerta. Marco, anche qua c'erano gelati in offerta, sono scomparsi i meccanosica, come l'acqua sono andati, qua da cosa, da Vittari. E quindi le locuste sono arrivate anche a Sassari, così è? Sì, per carità. Figa le mani. Semplice, ti ricordi, nonna mangiava solo pinguino che era senza denti. E quindi sono degli ottimi gelati, così ti rinfrescano. Io ho preso quei ghiaccioli, pacco da 20, o Marco, tutti i gusti, arancio, limone, Coca-Cola, di buco e di più. No, ogni tanto me ne mangio uno, allora era un perfetto. Mamma mia, come sto. No, ghiaccioli io c'è tutto il passo, troppo freddi. Mi fanno un po' male i denti, dipende. Va bene, vado a rinfrescarmi. Natalino, sì, se usi il più 4 mettilo a manetta però, perché se no rispetto agli altri sei un po' bassino. Riprendi Natalì. Ehi, quando metto il trimmer a posto, già torna normale. Qual era il trimmer? Quello AM Modulation, quello lì è. Ah boh, non so io, non l'ho mai vista una cappetta io quella radio, non so. No, a cosa stavo dicendo a Marcolino? Dimmi Natale. Qual è il trimmer? AM Modulation. AM Mod VR, guarda che c'hai, Natali, dovresti avere quello schemino giallo che ti avevo mandato con tutte le regolazioni. Ripeto, dalla fabbrica li buttano fuori uno col trimmer a un terzo, uno col trimmer a metà, quindi se non è a manetta, comunque sempre nei parametri del, diciamo, di un apparecchio omologato, ecco. Lo so, questo sarà chiuso del tutto, lo metterò a metà. Guarda, rispetto a come l'ho tolto dalla scatola, che era un terzo, già a metà migliora molto, certo non è come aprirlo del tutto, però migliora. Va bene, Gianni, vai, io mi mangio il gelato un attimino. Io non lo tocco, io lo lascio come te, tanto esce lo stesso, tanto sarà a toccare, poi magari peggiora la situazione, non è che si rompe il modulatore, questo e quell'altro, non sarebbe così. Questa a me ne va la radio, non riuscite a colpire di nulla, no? Questa è una bomba. Questo è Roy Roger. Roger, non ho una garanzia, esce benissimo. Cosa c'è abbinato già il microfono? La static. Va bene, non lo cambiare, lascialo stare lì, quel microfono che è nato per quella radio. Bella, corposa, fortissima. KK. Bella questa radio, l'ho presa da un collezionista, ce l'aveva in vetrina, ne aveva tante, le stava tutte sbarazzando perché doveva farsi posto che era diventato radioamatore e voleva farsi, diciamo, diversa la stanza, capito? Doveva mettersi dei ripiani, eccetera, le stava tutte dando, ma ne aveva diverse, tra cui c'aveva anche il Galaxy e aveva anche, come si chiama? Il DAC però che l'aveva già venduto, io gliel'ho chiesto se me lo dava, mi ha detto, oh, guarda, me l'hanno già ordinato e mi hanno mandato i gestori, lo devo solo spedire. Break. C'è un break, adesso ti facciamo passare, sì, vabbè, i collezionisti il DAC ce l'hanno sempre, e anch'io ce l'avevo già, ma avevo la casa qui, almeno avevo 16 di basi, tutti uno diverso dall'altro, bellissimi, e li ho tutti dati, no? Ho tenuto il DAC e il Saturn, basta, non ne voglio più, forse c'ho anche il presente, Jackson, Madison, non mi ricordo, forse in una scatola retro capisco. Faccio entrare il break, mi allontano 5 minuti e devo fare una telefonata urgente, mi sono dimenticato, che domani mattina c'ho una vista, voglio sapere a che ora devo andare. Avanti break, buonasera, Claudio Sparviero dall'Isola Sarda, in compagnia di tanti amici. Sì, ciao Rudy, mi sembra nella zona austriaco, ho capito così. 5758 segnale per te qua in Isola di Sardegna. Ok, ottimo segnale, complimenti per il tuo italiano. Claudio da Sassari, nord Isola della Sardegna. Ti passo Gianni, sempre qua dalla mia stessa città. Vai Gianni. Cappa, collega, ti saluto cordialmente dalla città di Sassari, nord Sardegna. Non so se tu mi stia ascoltando, mi do un aiutino, vediamo un po' se mi ascolti meglio, vai. Il segnale per te è Santiago di 9, la radio di 5, non so tu come mi stia ascoltando lì dalle parti tue, qual è la tua città dell'Austria? Bye bye my friend, bye bye. Ha detto già che non parla bene l'italiano, ho capito, quindi mi saluta. Arrivo subito, vai Tatarino. Sono impegnato. Marco. VR14 AM Modulation. Ma sento caro, 3009. Come? Lo sta regolando sul 3009? No, non lo sto regolando, no, c'ho lo schema qua. Ah. Cioè i trimmer sono due, non uno. Perché due? L'altro è il VR12 e SCB ALC. Non può entrare nulla. Ah, ho capito. Sera. Buonasera. Avanti, chi ha salutato? Ciao amico, sei nuovo, pioghero a lavoro. Ciao Carlo, ciao, ben sentito, cordialità, dai. Vi ho sentito prima, ma stavo cenando e quindi ero impegnato anche a cambiarmi. Sono uscito adesso e sto scendendo dal viadotto. Ciao Natalino, poi non so chi c'è, forse Marco. Ciao Carlo, buon tutto, buona discesa ad Alfa Lima. Marco non sta rispondendo, volevo sapere una cosa, ma dovrebbe essere quella che lo voglio un po' di Cappa caro, dove ti trovi adesso? Proprio sono a ridosso della rotatoria, quella che c'è alla fine del viadotto. Io sono modulato con lui, vediamo un po' come mi ascolti. Guarda, io da qua ti sento ottimamente e sento anche bene Natalino e... Insomma, qua mi arrivi fondo scala, io c'ho i LED e quando parli si illuminano tutti, la radio Super 5. Cava cava, ho saputo che ti hanno messo a posto l'apparecchio, sono contento, va. Stasera mi ha mandato Albino il video, infatti l'ho mandato a Massimiliano e Claudio che mi avevano consigliato loro, diciamo, Albino, dai, se lo vedi dici ma lo saprà fare, non lo saprà fare, invece è un genio. Vabbè, pazienza, va. Ne ho perso uno di apparecchio, ne ricomprerò un altro. E adesso quando ho tempo ci passo a ritirarlo, perché questi giorni ero impegnato tra mare e stavo portando mia figlia, accompagnando qua, là, tra lavoro e tante altre cose. Non stavo neanche entrando in radio perché avevo poco tempo. Ciao Carlo, sono rientrato, buon viaggio per Alghero, per il trabacco. Ciao Marco, adesso sono in via Sorso qua, anche a te ti ascolto bene. Cappa, finalmente un baracchino normale Gianni, non tutto SMD, CQCQ, LED, display, schmitter a LED, eccetera. Questo baracchino è di lusso, esci benissimo con questo, forse la modulazione migliore che ti ho sentito. Allora, questo è il 3009 omologato, il trimmer ce l'ha a metà, perché prima era veramente troppo chiuso, troppo, cioè metà, e il microfono a metà. Naturalmente fa da colore di bottiglia, fa molto da colore di bottiglia, però la timbrica è più bilanciata, K. Io rilancio per Natalino o per Carlo. Vai Natalino. Ehi, K. Marco, l'UR14 è AM Modulation, quello lì è, perché l'altro è SSB ALC. AM Mod, io non ce l'ho lo schema qua, aspetta, non ce l'ho davanti, Natalino. Aspetta un attimo. Ce l'ho io davanti. Natalì, e tu come mi senti? Bene? Se mi stai spaccando tutto qua. Sono vicino a casa tua. Lo so. Sì, è quello Natalì, è quello, VR14. Forse c'è scritto anche AM Mod, non lo so. AM Modulation, c'è scritto. E il mio è perfettamente a metà, questo è col display blu, è quello omologato, no? Che al momento ho momentaneamente disomologato, gli ho aperto le bande per far funzionare le parti del circuito che se no sarebbero sempre disattive, capito? Non sia che si rovini tutta la sezione delle altre bande se ogni tanto non le uso. Ma quello va anche in modo laterale, Marco? Sì, il 3009 sì. Io non lo sapevo, lo sai, normalmente non l'avevo usato tanto, che me l'hanno chiesto, però non è a bande laterali. Stai scherzando? Vedi che c'ha CV, FM, AM, USB e LSB. Sì, ma siccome ce l'avevo sotto, l'ultimo ripiano era quello di scorta, diciamo così, adesso un po' l'ho, diciamo, valorizzato, da quando gli ho messo il microfono l'ho valorizzato un po'. Però prima mi si diceva sempre che ci vuole un asino, che qua, che là, allora non accedevo nemmeno. Ehi, va bene. Io sono senza parole, sto aspettando che il gelato diventi da marmo a un po' più appetibile, dai, è freddissimo, è un blocco di ghiaccio. Una carnata che fa. Chi è? Chi è? Sorso? Sassari Sorso chiama, anzi Sassari chiama Sorso. Ehi, c'hai un'alternata meravigliosa. Oh cacchio, un'alternata, non lo sapevo, non ho il monitor. Come mai? Ma questo è un segnale di fondo, mi Franco. Adesso ti ha confermo. Ciao Gianni. Ciao Franco, ben sentito, cordialità anche a te. Gabba, non si è detto l'alternata di Marco? Prova Marco. Oh, c'era un'alternata di fondo, lo sentivo anch'io il segnale, ma è una trasmissione quella, fra, vediamo. Guarda un po'. No, si sente appena appena. Però io pensavo che fosse dal mio apparecchio, per quello non gli ho detto nulla. Ah, è cazzo. No, ma quando muro da lui, quando muro da lui lo fa. Perché se c'è con il lui, se c'è l'alimentatore interno, capito? Magari un po' si possono sentire le alette. No, la tua è pulitissima, Gianni, è pulitissima, tranquilla. Ma deve essere qualcosa, probabile che sia anche come sta dicendo Marco, che sia qualche cosa di fondo. Cappa, quindi questa radio è promossa? Capito, è bella, è bella. Sino ad oggi non ne hai radio brutte, dai. No, io già sempre ho avuto delle belle radio. E poi tutti i microfoni sono da abbinare bene con la radio, capito? Se abbini bene il microfono vai alla grande. Infatti è così. Vabbè. La radio anche quando ci fai una buona abbinazione, un abbinamento, escono molto meglio le radio. No, ne prendi uno, ce lo metti lì e lo lasci stare. Ciao Franco, questo è un abbinamento spettacolare già, veramente molto bella. Cappa, oh Fra, abbiamo parlato con l'Austria poco fa. Cappa, buono, ciao Claudio. Ciao Fra, ciao, c'è una propagazione allucinante, non so se mi senti. Sì, già ti sento Claudio, già ti sento. Vabbè, io sto scendo con 10 watt di radio, dai. Io 20 col capo lo stesso, 140. 20 watt, ma si è sollevata la propagazione. No, gli ho fatto i complimenti a Gianni, veramente un bellissimo abbinamento. Poi il Roger c'ha questa timbrica molto molto buona, bella. Quel microfono ci sta veramente bene, cioè non lo toccare, lascialo lì. E dopo c'ha 2 metri di filo, sono comparato, non c'erano cavi a cinque fili da fusare, ce l'avevano solo che è lungo 2 metri. Ma già va bene, perché mi posso correttare, ma se non devo né tirarlo né nulla, mi arriva, mi posso girare, fare, è lungo, se te lo faccio vedere passucci. Ciao Claudio. Ciao Carlo, buonasera, ben ascoltato. Già me l'immagino, ma lascialo così che va bene. Carlo, dove sei? Sono in macchina, ho turno di notte, sto andando a lavorare. Ehi, sei in mezzo alla propagazione, comunque riesco a capirti, dai. Ma stai rientrando o stai andando a lavoro? No, sto andando, turno di notte, finisco domani mattina alle 5. Ehi dai, già c'è fresco stanotte, già ci sta bene, ecco. Già mi sono portato anche lo spray anti-zanzara, perché sono in esterno stanotte. E tu vedi ti laglio attorno. Te lo immagini? Con le teste dell'aglio attaccate alla divisa. Non mi senti a me, Carlo? Salutalo. Ehi a Carlo, io ti ascolto sempre. Anche se c'è molto QRM di propagazione, non so se gli altri ce l'hanno, ma qua c'è un po' di QRM di propagazione. Beh raga, io vi saluto che è arrivata la truppa qua e dobbiamo preparare la cena. Ciao Gianni, ciao Franco, Carlo, Natalino, Marco, insomma tutti. Ritenetevi tutti salutati qua su 10. Ciao, buon fine domenica a tutti. Ciao Clash, sentiamo. Ciao Claudio. Ciao a tutti, un abbraccio a tutti, ciao. Ciao. Carlo, dove sei arrivato? Ah, ho capito, dai, già sei vicino ancora. A me spero che mi ascolti bene. Cavagà, voilà. Questo qui è lui, sì, la stazione base, Carlo. Natalino, tu senti ancora? Natalino, sentitele a Carlo. Natalino sta facendo cosa? Va bene, lasciamolo fare allora. Infatti, ma non tarderà molto. Vabbè, prendilo tu con il microfono per il momento, va. Mi sta arrivando. Va bene, là. C'è anche la segretaria, Bobo. Sono in pochi. Anche la segretaria personale, va, Natalino. Visto, non c'ero io e ha risposto lei. Cavolo, almeno non rimanete in stand-by. Adesso apro l'apparecchio e vi regolo quella storia. Ui. Vedi, anche Natalino ha ceduto all'alto oscuro della forza. Col cacciavite in mano, fa miracoli! Comunque, ho già, non è questione solo del 3009, tutte le radio, che siano President, che siano Intech, che tutte, quasi tu, 99%, io l'ho trovato, tutte con una modulazione talmente chiusa in AM che era indispensabile renderla almeno normale come modulazione, come un omologato. Secondo me le chiudono, le danno così tanto chiuse per poi si arrangiano in base ai paesi di vendita, magari da noi che ne si è ammessa a tot percentuale modulazione, in America magari la tollerano più alta, allora lì poi si arrangia all'utente finale, capito? Beh sì, infatti, magari la fanno un po' alla cavolo di cane quando lo fanno, gli danno una girata, come esce? Per non parlare della centratura, già, tragico, questo blu era tragico, ho dovuto rimediare perché altrimenti non... in banda laterale era completamente fuori, vediamo se Carlo arriva ancora. Carlo, dove sei arrivato? Mi sento forte e chiaro, sono prima. Sì, una media di 7,5, dai, quindi va bene, 7,5 qua. Riprendi Gianni. Ehi, a me Carlo, sempre mi ascolti? Ehi, tu stai arrivando basso però, Carlo, basso basso. Sì, mi è sparito anche a me. È colpa del QRM. No, ma proprio il segnale suo è sparito. Certe volte scende talmente tanto che sparisce nella propagazione. Sai cosa ci vorrebbe in macchina da Carlo? Un bel preamplificato per spingere un po' di modulazione. 747 è fatto io. Quello è il massimo. Come ce l'avevo io nella Opel, stavo 747, non avevo 1300, 747 e il baracchino l'anno 48 modificato. E se non parla che cosa amara. Quello veramente era una bella stazione mobile, una bella accoppiata, era anche carino il 48 di estetica. Ma l'ho venduto uno di Urbia, me l'ha fatto l'accorto e gliel'ho venduto, capito? 450 come l'ho pagato, l'ho venduto, non ce l'ho perso né guadagnato. Beh, ciao ragazzi, ci sentiamo, prepara a mangiare, buona cena quando l'ho fatta, ciao a tutti. E gli anelli di Sibra, vabbè, là. Buona carica allora, fra, c'è la tua benedizione oggi. Capo, dai, sono salito nel computer, l'ho acceso e sono entrato a salutare, solo due minuti, niente di più. Ciao a tutti, dai, ciao. Ciao Franco, già ci va bene lo stesso, fra, non c'è problema, è fatto bene. Avanti Marco. Prego, prego. Sì, sento. Scusate, registrato, sento propagazione forte, ciao fra, ti ha coperto uno straniero, adesso si sta allungando la propagazione, arrivano da tutta Europa qua. Buona serata, buon tutto, avanti al break. Ciao ragazzacci, Gianni da questa parte. Ciao, mi hai sentito? Ciao già, ebbene non sei morto di freddo? Guarda, sono bloccato a letto, via. Ieri mi sono un po' acceso lo split come ventilatore, non come condizionatore, per cercare un po' di placare il gas, me ne sono alzato praticamente inchiodato, mi sono dovuto prendere un antidolorifico perché sennò non riuscivo a dormire. Cacchio, addirittura solo la ventola, senza mettere il clima, così è? Affermativo. Sì, come ventilatore, no? La funzione fan, però senza... per far girare almeno l'aria calda. Mi sono appisolato e cazzo, mi ha fottito. Lui, abbacari dai. C'ho la schiena, cazzo, il bacino, e le gambe, le ossa, le giunture, cazzo. Lui, ce l'ho fatto l'affare. Buonasera a tutti comunque. Ciao Gianni, domani non te ne ricordi più. Se hai preso l'antidolorifico, c'è qualche infiammazione, magari ti basta. Cercare mille posizioni per trovare il meno fastidio possibile. Alla fine, nel cuore della notte, ho preso e mi sono calato una bustina di antidolorifico, almeno sono riuscito a dormire. Baccari dai. Lui? Non vuol dire a me che io sto combattendo col femore, non riesco manco a appoggiare la gamba in terra. Sicuramente invece sono da operare, non è questione di antidolorifico, almeno tu con la telefonica risolvi e finito lì. Già, troia. Però nel momento presente è una rottura di coglioni, cazzo di... mamma mia. Cazzo Basileta ero, cazzo. Tipo capogiro, rincoglionito, mamma mia. Ui. Avanti Natalino, al favore. E aspetta, sto facendo una cosa delicata, un attimo. Smanettando, avanti Marco. Configurazione 3009 e KPO. Sì, io sono senza parole, mi sono mangiato il gelato adesso perché si è caldo, io sono in mutande, la pelle non me la posso togliere, che devo fare? Il condizionatore non ne ho voluto mettere, se no Gianni ha già capito, Gianni il profeta, mi fulmina, come ha fatto lui fa a me, però a me prende soprattutto la gola e il collo, capito? No, io faccio corrente in casa, ho tutte le finestre. No, se apro adesso ancora c'è un forno qua, non è rinfrescato. Io guarda, di notte tardi, tipo dopo la mezzanotte, se sento che fuori l'aria è fresca, allora apro tutto. Cucina, cessino, quello in fondo, cioè da una parte all'altra proprio dell'appartamento, in modo che passi l'aria, se passa, perché l'aria c'è volte ferma già e non passa proprio. No, qua già c'è un po' di corrente, anzi non è che faccia bene, ma è già piacevole che ti svetti di sotto. Ehi, vediamo se Carlo è già arrivato in zona. Carlo, ci sei ancora? Io non sento nulla, eh. Attenzione Carlo, ci sei? No, non senti più, devo aver chiuso. Oh, forse è già arrivato, io c'ho tipo 4 di QRM così, segnali vari, più soffio, più crepitio, quindi c'è un limite al di sotto del quale Carlo non arriva ad Alghero. Cappa gatta. Vabbè. Comunque un pezzo ce l'abbiamo sentito, lui si dovrebbe mettere anche un'antenna un po' più lunga. Lui mi ha accompagnato, io sono tornato all'aeroporto, sono partito dall'aeroporto e si da Sassari arrivavo sempre da 7 a 9, 7 a 9. Sì, come una cosa del genere, ma dal metro e mezzo in su credo che vada bene. Invece io non ho più usato quell'antenna famosa da un metro, quella tipo bibanda, VU. Quella lì l'ho usata una volta per prova, poi non sono più uscito, mamma è così, quindi non manco per quanto l'ho pagata. Perché è molto costa. Allora, quell'antenna Sirio, simil bibanda, lunga un metro, più la base, perché senza base non la vendevano, roba di 70 euro. Ma è della 27? Certo, però l'aspetto di una Diamond NR770, o come si chiama, quella che ha la bobina a metà altezza. Ho capito. E tu hai pagato, diciamo, l'estetica allora? Sì, guarda, era uno sfizio che mi volevo togliere, mi piaceva l'aspetto, poi a parte che praticamente l'altra base magnetica era rovinata, quindi mi faceva comodo un'altra base magnetica di tipo piccolo, una da 120. Infatti mi hanno mandato quella Sirio che forse è migliore di quella ex Midland. Però non dico io, 70 euro. Un mozzicone di antenna e una base magnetica, boh. Vabbè, veniamo a pensarci. Il profeta riprende. Però Garidale, vorrei formatarmi tutto, cazzo, tipo hard disk, resetta e restare il sistema. Cazzo, scricchiero come un mobile vecchio. Per carità, quanta bella giovinezza che si fugge tuttavia, eccetera, eccetera. Io se esistesse il diavolo venderei l'anima al diavolo per ritornare bambino. Proia. Mamma mia, cazzo. E poi c'è anche una notte con le dosi di mal di testa, vabbè. Aspettiamo Natalino che smanetti questi trimmer. E ci ce l'hai. Avanti già. Ti ho preso anche la scatola carica, sicuramente ne ho per le ossa, l'umidità è una cosa allucinante. Io me ne accorgo perché dormo con la finestra aperta la notte e poi la mattina quando mi riviso sul gruncino. Marco, adesso è normale, adesso lo metto a metà e vedi un po' se ha cambiato. Ok. Prova Natalia, a me sembrava lo stesso. Sì, perché non avevo toccato niente, guarda adesso. Marco, tu cosa dici? Beh, a orecchiometro non si